24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. E allora eccoci qui alle 6:33 minuti, buongiorno cari ascoltatori, siamo ormai agli sgoccioli perché per me domani sarà l'ultima puntata prima di che cosa? No, prima del 7 gennaio, no? E nel senso, non crederete anche voi a questa puttanata dei Maya. Tra l'altro stasera ci sarà anche uno speciale, so. Cos'è? Com'è che si intitola? Beh, c'è Federico Taddia che lo conduce, aspettando la fine del mondo praticamente. Vabbè, quella roba lì, ecco. Comunque, penultima puntata dell'anno per quel che mi riguarda, ma 24 mattino continua anche fino al 31. E come al solito, ovviamente, il consiglione, But please relax. Come sempre, relax, anche perché ormai ha quasi deciso. Allora il nostro bar può aprire, il nostro bar con la nostra bella Nicole Minetti. Il caffè volentieri a tutti quanti. Uno degli ultimi caffè che offre, anzi forse l'ultimo di fatto come consigliere regionale. Ieri ultimo giorno di consiglio regionale. Saluto Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Buongiorno e ben ritrovato. Eccoci qua. Buongiorno. L'ultima puntata del mondo, eccoci. Saluto anche Alessandro Giglioli e il suo blog Piovono Rane. Buongiorno, ben ritornato. È un onore esserci all'ultima del mondo. Dai. Dai, perché poi dopo di questi non sentirete più voci, voi siete le ultime di 24 mattino. Allora, dicevo ieri, ultimo giorno di Nicole Minetti al consiglio regionale, avete sentito che ha avuto una piccola vicissitudine, Maurizio, Alessandro, avete sentito che c'è stato illuminaci la data, dice lei, da un giornalista di una TV locale. Insomma, sì. Accuse pesantissime, molestie alla regione. Tutte queste spese negli hotel, nelle spa, cos'è? No, ma è toccato la testa? Toccami un'altra volta, poi ti tocco io, sono cazzi, Sì, però vabbè. Mi hai toccato una tetta, gli ha detto al giornalista, E su. E poi no, facciamola risentire. Subito, bisogna farla. Tutte queste spese negli hotel, nelle spa, cos'è? No, ma hai toccato una tetta? No, sono... Toccami un'altra volta, poi ti tocco io, sono cazzi, Sì, però, aggressiva, oh Giglioli, aggressiva, so cazzi poi se mi tocchi un'altra volta, Sarà nervosa, poveretta, dai. No, vabbè, l'accusato di toccarle una tetta, mica, cioè, sai com'è, è mica una cosa così. La famosa casta dei giornalisti, può avvicinarsi alla Minetti. Sì, infatti, cioè, chissà tutti, Maurizio, diranno tutti, beati voi, che potete intervistare. Oh, santo Dio. Non ha risposto alla domanda. Non ha risposto alla domanda in che senso? Sì, certo. Ha fatto un'accusa pesante. Vabbè, va bene le domande, però non è che uno può toccare le tette alla Minetti così mentre fa una domanda. È un escamotage per evitare di rispondere alla domanda. Ah, tu dici che in realtà non c'entravano niente le tette. Cioè. Magari sì, ma mi pare un trucchino abbastanza così. E poi è aggressiva, col giornalista che diceva sì vabbè dai su, cioè, come dire, ma come sì vabbè dai su, cioè, come dire, ti ho toccato una tetta, però dai su, dai, rispondimi, ma no, come, non si fanno queste cose, questo è dubbio. Vabbè, comunque geniale. Allora, io ho davanti tutti i giornali e ci è venuto in mente una cosa su quello che sta succedendo come panorama politico, e su questo vi voglio subito interrogare, perché sta succedendo un qualcosa che ci ha fatto rispuntare dalla memoria una vecchia pubblicità. Ci vuole ben più di un anno perché un ananas raggiunga la perfetta maturazione. L'uomo del monte sa quando è il momento giusto. L'uomo del monte ha detto sì. Ebbene sì. Del monte. L'uomo del monte, Monti, ha detto sì. Ha detto sì. Pare così. Ve la giro così. Tutti i giornali titolano Maurizio Tortorella. Monti si candiderà e nel weekend sì. Scioglierà la riserva. Ha fatto questo incontro con Montezemolo, Casini. Il Riccardi ha rinviato la conferenza stampa che era prevista per venerdì e quindi presumibilmente sabato o più facilmente sabato se non domenica andrà al Colle, parlerà con Napolitano e poi annuncerà che si candiderà alle elezioni. Questo appare come il percorso più probabile. Sì, ma è tutto normale. Non so, Giglioli, vorrei, a parte che ho una considerazione da sottoporvi, perché oggi ho visto chi è la galassia Tornamonti. Allora, Riccardi, ministro cattolico, Cesa, Dudici, Casini, vabbè, lasciamo stare magari Montezemolo, in questo discorso c'entra meno. Poi torna Mastella, scrive il Corriere, Mastella. E io ho detto, ma questa è la Democrazia Cristiana. Sta tornando la Democrazia Cristiana. Giglioli? Sì, è abbastanza divertente questa lista di centro, devo dire. No? Pensiamo che metti insieme uno come Riccardi, che ha passato la sua vita dal rifugio agli immigrati, e uno come Fini, che ha firmato la legge contro l'immigrazione più infame, se posso dire, della storia di questo paese, una delle peggiori del mondo, quella che mette nei CIE senza processo e senza reato gli immigrati. Metti insieme ultraliberisti, non so se poi partecipa anche il nostro comune amico Giannino, ma non lo so. Il Repubblica dice che è in forse. Comunque ultraliberisti e ultrastatalisti, no? Casini, Cesa e questi qua. Metti insieme quelli che hanno votato in Parlamento la mozione che diceva che Berlusconi credeva davvero che Rubi fosse la nipote di Mubarak, e quelli che dicevano che, cioè molti, per capirci, molti transfughi del PDL, e quelli che invece dicevano che Berlusconi era un'infame puttaniere. Quindi è un bel pastrocchio, oserei dire. La Democrazia Cristiana era un contenitore in cui tutti questi spinte, questi pastrocchi, poi alla fine trovavano una sintesi. Questo mi sembra più un gran caos, mi fa ridere da elettore di sinistra. No? Però sembra così. Cioè, io voglio dire che la considerazione l'ho fatta. Oggi ho aperto il Fatto Quotidiano e Antonello Caporale, a pagina 3, scrive proprio così: torna la balena bianca. Ma io non l'avevo. C'è anche Olivero delle Acli, cioè c'è una forte componente. Tu dici, poi ovviamente ci sono anche altre componenti, ma una forte componente di quella che si poteva richiamare a una, non so, a una DC edizione moderna. Non so, Maurizio Tortorella, tu che ne pensi? È una lettura un po' superficiale, però non so, mi sembra. Se posso dire, non mi sembrano neanche che dei gran nomi. L'elenco che tu hai fatto è abbastanza, per carità, poi si vedrà nel prosieguo della campagna elettorale. Comunque questo tipo di problemi purtroppo ce l'hanno un po' tutti gli schieramenti, perché anche Bersani dovrà fare i conti con un partito nel quale ha un po' tutto dentro, voglio dire, dall'economia all'etica, il PD, ancora più se lo si allarga a SEL, ha versioni diametralmente opposte su vari punti anche fondamentali di un programma. È purtroppo una caratteristica italiana, non riusciamo evidentemente a creare un bipolarismo coerente. Sì, ma poi è un momento di confusione, non si capisce niente. Anche un amico stretto di Maurizio Tortorella, Antonio Ingroia, forse si che fa ride, forse si candida, ma forse sono contento che si candidi Ingroia, mi pare che voglia. Non è detto, non ancora deciso. No, ma si candida. Ho sempre difeso, tra l'altro, penso in maniera coerente la sua libertà di esprimersi al congresso di partito, cosa che ha fatto e per la quale è stato invece censurato al CSM. Secondo me uno può serenamente, un magistrato deve poter esprimere le sue idee. Il problema è che non può parlare, non dovrebbe poter parlare dei processi che sta seguendo. Ecco, questa mi pare una limitazione meno facile. No, però io un aspetto su Mario Monti è questo, e vorrei farvi parlare di questa considerazione. Per me è abbastanza incredibile che Mario Monti, cioè si vuole candidare, benissimo, si candidi, però Giglioli, non è che si dovrebbe magari, come percorso istituzionale, dimettere da senatore a vita? Capisco che potrebbe essere uno sgarbo istituzionale mica male con Napolitano, e prendere i voti, perché lui si candida, a me forse battezzerà delle liste di centro, ma i voti li prenderanno altri per lui, e potrebbe essere la seconda volta che torna a Palazzo Chigi senza aver preso un voto. Questo è il dato di fatto. Ma no, onestamente, Alessandro, questo mi sembra l'ultimo dei problemi. Insomma, mi ha dato molto più fastidio, se posso dire, il fatto che da premier abbia organizzato queste liste di centro, perché saranno mi pare 3 o 4 alla Camera e una al Senato, da Palazzo Chigi, usando di fatto Palazzo Chigi come centrale della nuova... Sì, è la sede del partito, cioè la sede del partito l'ha già decisa, è Palazzo partito, Chigi, riceve esatto. lì. E riceve poi lì. Mi ha dato fastidio, se posso aggiungere, si sa che io sono un po' assertivo, sì. Il grande inganno con cui ci hanno preso per i fondelli per un anno, cioè quello di farci credere che fosse un governo tecnico e super partes, non è un governo, io scusatemi ma lo dico da un anno, non è un governo tecnico e super partes, è un elegante ed educato governo di centrodestra che ha fatto una politica di centrodestra che adesso giustamente viene sponsorizzato dal centrodestra europeo, a partire dalla Merkel, e che si candida a governare il paese con un programma prevalentemente di centrodestra, con uomini prevalentemente. Ma infatti cosa farà? Ora, la lista Merkel? Cosa farà? La lista per la Germania? No? No. Lo chiedi a me, Alessandro, no, sì, o al collega? Sì, sì, no, lo chiedo, lo so, tutto, Alessandro, che farà? Giglioli? No, farà il tentativo di fare l'equivalente, sì, se vuoi l'equivalente della CDU tedesca o l'equivalente dei collisti francesi con cui sono imparentati, anzi più che imparentati, che hanno proprio fatto un endorsement pubblico, perché in Italia la parola destra è stata rapinata per 20 anni da una cricca di farabutti, e allora non possono usare la parola destra, usano la parola centro, ma insomma è un governo di centrodestra. Il governo di centrodestra. Intanto oggi su Repubblica c'è scritto in retroscena che Monti avrebbe qualche pillola da riservare in campagna nei confronti di Renato Brunetta e Nichi Vendola, o in serbo qualche pillola nei confronti di loro, non si sa bene molto di più. Intanto chi sta facendo campagna in TV è Silvio Berlusconi, ieri era Canale 5, sentiamolo, sulle donne. Io ho sempre ritenuto che le donne fossero più meritevoli di noi, sono più responsabili e hanno un intuito che consente a loro di arrivare al nocciolo della questione, mentre a noi uomini, immediatamente, mentre a noi uomini dobbiamo fare dei giri molto complicati. E anche per questo ho avuto un governo che ha avuto il numero più alto di donne nella storia della Repubblica. Insomma, le donne sono meglio degli uomini. E poi ancora Berlusconi: se verrò eletto farò tutto per la famiglia. Credo che dovremmo fare molto in difesa della famiglia, in difesa della donna, ma ripeto, inutile prometterlo adesso, perché sono modifiche importanti che si possono fare solo con la maggioranza assoluta in Parlamento. Se questo ci sarà, io garantisco che saranno tra le prime situazioni a cui daremo una modernizzazione. Garantisco. Comunque dal palinsesto che da oggi i giornali pubblicano nella pagina degli spettacoli, sul palinsesto riservato solo a Berlusconi, oggi sarà... Non si potrebbe dire questa, però la dico, non dovrei dire. Vabbè, insomma, sarà Radio Anch'io su Radio Rai alle 9, l'ho detta. E domenica sarà all'Arena di Giletti, e però si attendono nuovi aggiornamenti. Psichiatri d'Italia, fate la vostra diagnosi, dite finalmente chi è questo personaggio, altrimenti c'è il rischio che 4 escort in crisi di astinenza magari lo votano pure. Abbiamo un'azienda che è una 40 di dipendenti, tutte donne, a Torino, e il comune di Torino ci ha comunicato che dal 1° di gennaio la nostra tassa rifiuti cambierà nome, ma aumenterà del 290%. È lecito per me scrivere agli enti, all'ufficio delle entrate, che pagherò il 290% in meno di IVA, che pagherò il 290% in meno di IRAP, che pagherò il 290% in meno di IMSS e così via. Volevo dire a Silvio Berlusconi che se ha tanta voglia di fare volontariato per aiutare qualcuno, c'è mio figlio che è volontario della Croce Rossa che lo aspetta a braccia aperte. Va bene, grazie, buongiorno. Milan, Forconi, no mai. Mi chiedo però una cosa, di fronte a tutte queste esternazioni di Berlusconi, esistono trattamenti sanitari obbligatori? Per lui nulla? Italiani, tranquilli, il 21 dicembre non ci sarà la fine del mondo, ma è la fine del Monti. Volevo cogliere l'occasione per far sapere al Partito Democratico che se è vero quello che ho appena sentito, e che cioè Versani concede 10 deroghe, tra cui Lumia, Rosi Bindi, Fioroni ed altri, beh, il PD non dovrà contare sul mio voto. Grazie, arrivederla Milan. Vabbè, insomma, devo dire, siamo con Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, e con Alessandro Giglioli e il suo blog Piovono Rane. È così, devo dire, tantissimi messaggi su Berlusconi, ne abbiamo messi alcuni, ma è tornato Tortorella, e la gente, se sapessi le chiamate, tutti su Berlusconi, poi tutti contro, poi mi diranno, ecco, anche tu mandi, ma sono tutti contro quelli che chiamano. Telefonate alla segreteria ammiratore di Berlusconi e diteci perché è giusto che torni. Però è un po' così, che effetti Berlusconi ha diviso, e divide la sua carriera politica, cioè ha riscatenato quella in parte anche quella rabbia, abbiamo sentito, di gente, addirittura trattamenti sanitari obbligatori, gente che... i pazzi ci sono sempre ovviamente, e anche i maleducati. Quello che mi interessava, però, volevo dire una cosa, sì. Alessandro, questa discesa in campo di Monti, così come la discesa, il ritorno di Berlusconi probabilmente, ma probabilmente anche la discesa in campo di Ingroia, che secondo me ci sarà, sono tutti elementi che stanno molto innervosendo Bersani, soprattutto Monti, soprattutto la decisione di Monti, perché dopo le primarie probabilmente il PD sentiva di avere il pugno alla vittoria, adesso invece tutto, i giochi sono tutti molto, ma è chiaro, Monti romperà le uova nel paniere di Bersani, cioè nel senso che Bersani altrimenti avrebbe vinto a mani basse, avrebbe stravinto. Lo so, Giglioli, sei d'accordo su questo? Cioè Monti farà male, soprattutto lì. Farà male, io credo che si vada verso una situazione di elettorale, visto che si vota col porcellum, in cui Bersani avrà la maggioranza alla Camera, non l'avrà al Senato. Quando sarà al Senato dovrà rivolgersi a uno dei due schieramenti, o alla sua destra o alla sua sinistra. Quello della sua destra è Monti, quello alla sua sinistra è costituendo Movimento Arancione, se arriverà in Parlamento e se costituirà una forza del 5-6-7%. Mm-hmm. Ovviamente le pulsioni maggiori sono nel PD, attualmente sono tutte rivolte nei confronti di Monti, e quindi questo è il quadro che, se non ci sono terremoti elettorali, ci sarà presto. E avremo Antonio Ingroia ministro alla giustizia, magari. Che Dio ci scampi. Chiedi a me, non lo so. Che Dio ci scampi, dice, ma tanto arriva Di Maio e si fa per giocare. Se posso fare anche al mattino, perché i problemi grossi di questo paese sono quegli 8 milioni di italiani e italiane che secondo Banca Italia sono ufficialmente poveri. I problemi grossi sono la crescita della forbice fra i redditi più alti e i redditi più bassi, ma è chiaro, gli uomini e delle donne. Il tema del lavoro, per esempio, le vediamo poco in campagna elettorale. Il tema del lavoro, tra l'altro, mi dà lo spunto, perché io ho qua il numero di Panorama, visto che abbiamo Maurizio, perché oggi su Panorama c'è la copertina di McDonald's, no? MacBoom, dove si assume. A parte che io ho una storia personale, c'è un'amica di mia moglie che ha iniziato a fare patatine così in un McDonald's di Londra, adesso gestisce come direttrice di locale di McDonald's, 2 o 3 punti a Londra, quindi c'è veramente c'è questa meritocrazia a McDonald's, per cui davvero si può entrare a friggere patatine, si può diventare un manager. Ma assolutamente, ma al di là di questo, la notizia è che McDonald's investe sull'Italia, investe 500 milioni in 3 anni e apre 120 ristoranti e assume 3.000 giovani, e la cosa appunto ignota ai più è che si tratta di contratti a tempo indeterminato, e i dipendenti di McDonald's non sono tutti ovviamente assunti con contratti a tempo determinato, ma sono nella stragrande maggioranza assunti in un'altra maniera, con contratti fissi per posto. Quindi la decisione di mettere in copertina, voi mettete il lavoro che c'è. Che è una notizia positiva, insomma, abbiamo in questa congedia disastrosa di pessimismo, Maia, incipienti e così via, incombenti, abbiamo pensato che questo potesse essere un segnale interessante. Abbiamo raccontato anche altre aziende, dalla General Electric in giù per dimensioni, che hanno deciso di investire sull'Italia e ovviamente fare assunzioni. Devo dire, mi sembrano notizie interessanti anche per lettori appunto che hanno problemi. Sì, ma anche perché c'è un disorientamento, no? Alessandro, lo dicevi, secondo me si parla tutto di riposizionamenti della politica, i centristi e non i centristi, e la destra e la Russa che fonda un nuovo partito, ma chi se ne frega, dicono gli italiani, cioè le cose concrete. Gli italiani dicono: abbiamo pagato l'IMU, l'ultima rata, non c'è il lavoro, ci sono i figli che perdono il lavoro, sono i genitori, quelli di 60 anni, che vedono i loro figli di 30, 35, 40 anni perdere il posto di lavoro, o no Alessandro? Alessandro, il problema è che in una buona, secondo me, ovviamente, in una buona politica i partiti sono mezzi e non fini, sono strumenti per la realizzazione di idee, di programmi, di progetti contrapposti, belli, brutti, e poi per realizzare questi progetti. In Italia invece quasi ovunque, quasi per tutti quelli che fanno politica, i partiti sono dei fini, cioè si lavora in vista della perpetuazione del successo della ditta, della fabbrica, indipendentemente dai progetti o comunque tenendoli come secondari e dalle idee. E questa secondo me è la rivoluzione civile che dobbiamo fare in Italia. Questa è la rivoluzione civile. Intanto, dopo tutte le apparizioni televisive, che tra l'altro Alessandro, ti sconvolgono le apparizioni di Berlusconi? No, faccia quello che vuole. No, ma cerco di parlarne il meno possibile, perché vabbè. Credo che vabbè, Casini invece l'ha vista così, Casini, ha acceso la TV e... Ieri sera ho visto un UFO, ho aperto la televisione e ho visto un UFO che ha spiegato come si risolvono i problemi del paese. È stato uno spettacolo esilarante, perché questo signore per 20 anni ha governato questo paese. Vabbè, l'UFO ha visto, non lo so, qua UFO mai. Avete organizzato il vostro ultimo giorno, che poi sarebbe oggi. Cosa fate, Maurizio? Cosa fai? Vai a lavorare? Come sempre. Vabbè, cioè, vuoi soccombere così? Ecco il messaggio, è Polillo, esci da Tortorella, che lavora l'ultimo giorno. Il sottosegretario Polillo è entrato in Tortorella. Quello che dice che bisogna lavorare di più. Tu, Giglioli, cosa fai? No, io faccio uno sgarbo a Polillo. Mi sono messo in aspettativa qualche giorno e poi metto insieme aspettative serie. Oggi sto con la mia famiglia. Oh, vedi come si attende la fine del mondo in serenità, tranquillamente, no? Con la famiglia. Invece Tortorella, vada a lavorare. Tu e Polillo siete a lavorare. Finché c'è il lavoro, certo, questo sì. Vi ringrazio, Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Trovate l'ultimo numero in edicola proprio da oggi. E Alessandro Giglioli, il suo Piovono Rane. E attenzione, se intervistate Nicole Minetti, non avvicinatevi troppo, perché possono succedere cose per le quali vi accusa di problemi abbastanza terribili. Tutte queste spese negli hotel, nelle spa, cos'è? No, ma è un hotel? No, scusa. Dai. Portami un'altra volta, poi ti tocco io, su cazzi, Sì, però, vabbè. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate... Alessandro Milan vi ascolta. È giovedì 20 dicembre, i titoli intanto. Il Sole 24 Ore apre sulla situazione delle borse. Spread a 295 punti, BTP al 4,39%, questo è il titolo di apertura di prima pagina. La politica invece, con la decisione ormai pare imminente di Mario Monti, in qualche modo ancora da definire, di candidarsi, è l'apertura per molti altri quotidiani. Così Monti sarà in campo, così il titolo del Corriere della Sera in prima pagina. Per Repubblica invece, Monti sarà candidato premier. Il Messaggero, Monti, il programma per il voto. Il Fatto Quotidiano, il Monti caos. Il Manifesto, l'unto del Signore alla faccia del rigore europeo. La Commissione europea assolve Mario Monti e condona al Vaticano il mancato pagamento dell'ICI all'Italia dal 2006 al 2011. Dunque ha messo insieme due cose e l'unto del Signore in questo caso è Mario Monti per il Manifesto. La Stampa, c'è l'intesa, si vota il 24 febbraio. Il giornale, e così anche l'Unità, era un altro quotidiano, Avvenire, si va al voto il 24 febbraio. Il giornale, Monti fa la lista Merkel. L'Unità, Napolitano ferma Berlusconi, nessun rinvio, si voterà il 24 febbraio. Libero invece, pensioni tassate due volte, fregatura tecnica. Queste alcune delle aperture, vedremo se c'è tempo per leggere qualche altra durante la rassegna stampa. Prima però il solito consiglio, perché oggi delle notizie da mani sul volante, non arrabbiatevi, o se dovete farlo come sempre alla prima sosta possibile, mani sul volante, perché quello che succede alla Regione Lombardia con i rimborsi dei consiglieri regionali accusati alcuni di peculato, beh, c'è uno che in qualche modo ha già ammesso qualcosa, il capogruppo del ex capogruppo, ieri è sciolto il consiglio regionale, ultimo giorno, capogruppo della Lega Stefano Galli, che era stato accusato di aver pagato anche il pranzo di nozze della figlia con i soldi poi fatturati e con fattura presentata e rimborsata alla regione, ha ammesso: ebbene sì, per le nozze di mia figlia ho usato fondi della regione. Questo è il titolo, per esempio, della Stampa, pagina 10. Trovate questa missione che in realtà c'è la zanzara con Giuseppe Crociani, lo chiama ogni sera ma non risponde, ma risponde una straordinaria segreteria telefonica. Stefano Galli però su Facebook ha spiegato, è vero, aveva detto la coscienza a posto, non sono mica come il laziale Franco Batman, Fiorito. 5 giorni dopo invece Stefano Galli confessa via internet: cari amici di Facebook, ho provveduto a rimborsare interamente le spese sostenute per il ricevimento matrimoniale di mia figlia, che erroneamente erano state inserite nella mia personale lista di rimborsi. Eccolo qui, è stato un errore. Ha rimborsato tutto, ma è stato un errore. Il classico pranzo di nozze a mia insaputa. Ecco, aggiornare la lista, oppure fatturazione del pranzo di nozze a mia insaputa. Pirellone, anche il buffet di nozze tra i rimborsi, anche per Repubblica. Andrea Montanari ne parla a pagina 23 di Stefano Galli, che dice effettivamente ho sbagliato. Mentre, vabbè, Nicole Minetti è stata protagonista di uno show, nel senso che le chiedevano dei rimborsi e lei ha accusato un giornalista di averle toccato nel parapiglia una tetta. E questo è il dato di fatto. Anzi, eccezionalmente volevamo far sentire l'audio, perché non è molto da spiegare, ma più da ascoltare. Tutte queste spese negli hotel, nelle spa, cos'è? No, ma è toccato la tetta? Dai, un'altra volta, poi ti tocco io, sono cazzi, Sì, però va bene. Questo è successo ieri, avete sentito, non c'è bisogno di traduzione o di spiegazione. Il Minetti Show, che fai, tocchi? Anche il Fatto Quotidiano, David Perluigi e Nello Trocchia, ultimo giorno al Pirellone, e Nicole Minetti è protagonista di questo battibecco con un giornalista, lo accusa di averle toccato una tetta nel tentativo di avvicinarsi per fare delle domande. Vabbè, avete ancora le mani sul volante? Tenetele, perché ho un'altra notizia che proviene dal Messaggero, mani ben salde sul volante, pagina 9, è un articolo di Mario Aiello che racconta quello che in Parlamento veniva definito in passato l'assalto alla diligenza, cioè il tentativo di far entrare in provvedimenti parlamentari delle prebende per un po' tutti. Ebbene, nell'assalto alla diligenza che si sta facendo, scrive Aiello, per l'approvazione della legge di stabilità, ci sono delle cose molto simpatiche. L'articolo lo trovate a pagina 9. Castelli, basiliche, maestri di sci, l'ultimo assalto alla diligenza. Scrive Mario Aiello: Bettino Craxi, che pure era un uomo di mondo, perfino troppo, la chiamava la legge arraffa arraffa. Altri come D'Alema hanno usato l'immagine del bazar, il Parlamento si trasforma nel più squallido souk quando ci sono da distribuire soldi della finanziaria. Oggi si chiama legge di stabilità, ma la morale non cambia, mance, mance, mance. E ieri, scrive Aiello, è stata gran festa sulle piste innevate, perché nel mercato delle richieste, pretese, minacce, favori campanilistici, partitici, correntizi e corporativi, il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci e i parlamentari che lo foraggiano hanno incassato un bel gruzzolo. Intanto 1 milione nel 2013, 6 milioni nel 2014 sono andati invece agli abitanti dei comuni interamente montani. Così c'è scritto. Che vuol dire interamente montani? E poi 1 milione per celebrare il secondo centenario di Giuseppe Verdi, e vabbè, 200.000 euro per la Basilica di San Francesco, passi pure. Ma perché, scrive Aiello, nell'assalto alla diligenza arrivano anche le casse pubbliche a sborsare 130.000 euro all'anno per trasferire il castello di Udine dalla città alla regione Friuli? Ebbene, però questo è stato stanziato. Il concetto è questo, soldi a pioggia, i parlamentari, scrive Aiello, fanno così: io risistemo quelle ville a Taranto con i denari di tutti, tu prendi 10 milioni per fronteggiare il grave dissesto idrogeologico ma sono in Abruzzo, per gli elettori che fanno al caso tuo, insomma uno scambio di favori. Allora, ancora, al turismo rurale della Basilicata andranno 5 milioni di euro nel 2013 e 10 nel 2014. Gran festa e champagne per questi 15 milioni spalmati per il turismo rurale in Basilicata, che avrà dei benefici mastodontici, immagino. E poi ancora piovono soldi sullo sviluppo della pesca con la canna, 400.000 euro. Sviluppo della pesca con la canna, 400.000 euro. E ancora 600.000 euro per promuovere un ufficio per la promozione tecnologica, cioè 600.000 euro per promuovere l'ufficio per la promozione tecnologica. Serve qualcos'altro? Aggiunge Aiello nella conclusione del suo articolo. Forse la rabbia mostrata da un compianto e generalmente compassato ministro delle finanze Tommaso Padoa-Schioppa quando diceva: non avete capito che siamo disperati? Ve lo devo ripetere, siamo alla canna del gas. Queste parole, scrive Aiello, mai più azzeccate del compianto Padoa-Schioppa, ma niente, non ce la fanno. Ogni anno la diligenza passa e l'assalto degli indiani continua. E tutti sono concentrati ormai sul capire che cosa farà Mario Monti e sembra di poter dire che il dado sia tratto. Nel weekend, dopo l'approvazione della legge di stabilità e dopo le successive dimissioni di Mario Monti nelle mani del capo dello Stato, tutta questa insomma giusta procedura istituzionale che ci sarà, probabilmente ci sarà la conferenza di fine anno, sabato forse, e forse contestualmente o forse in maniera leggermente differita successiva, insomma Mario Monti deciderà di annunciare che cosa farà, anche se ormai sui giornali è chiaro, titola per esempio Repubblica, ripeto, in prima pagina: Monti sarà candidato premier. E le condizioni di Monti, questo è il titolo dell'articolo che trovate a pagina 13, la giornata politica riassunta da Lina Palmerini, con Mario Monti che ieri ha incontrato a Palazzo Chigi, questo ha fatto storcere il naso a qualcuno, come dire, ma insomma utilizza Palazzo Chigi come sede del governo, come sede per porre le basi per la propria formazione politica, quale essa sia, poi si vedrà. Bene, comunque ha incontrato a Palazzo Chigi i cosiddetti centristi Casini, Montezemolo, il ministro Andrea Riccardi, un incontro voluto dai montiani, così li definisce Lina Palmerini, per chiedere al premier se ha intenzione e come di impegnarsi nelle prossime elezioni. Più concretamente la richiesta è quella di mettere la sua faccia in campagna elettorale, anche perché l'offensiva berlusconiana rischia di recuperare quei voti in libera uscita dal centrodestra molto preziosi per il centro. E allora cosa farà il professore? Secondo il Sole 24 Ore lancerà prima una sua agenda, una sorta di manifesto programmatico, poi vedrà quali partiti e quante personalità raccoglieranno il suo appello e solo dopo deciderà le modalità del suo impegno. Questo per il Sole 24 Ore. È tutto un fiorire di retroscena, ovviamente, su quello che è il Monti pensiero, l'interpretazione del Monti pensiero secondo tutti i giornali. Francesco Bei su Repubblica racconta: l'annuncio sarà domenica dopo le dimissioni. Nonostante i rischi personali a cui si sa di andare incontro e benché sia convinto che sarebbe sicuramente più comodo restarsi nel suo studio da senatore a vita a Palazzo Giustiniani in attesa di un'offerta allettante da Bersani, in cuor suo Mario Monti ha deciso, scrive Repubblica, la candidatura come leader del centro e quindi come candidato premier è sicura. Sicura secondo il retroscena di Repubblica, Questo emerge dal vertice ieri, Riccardi, Montezemolo, poi una telefonata successiva con Fini, poi gli incontri con Passera, Grilli, Giarda, Moavero, dunque ministri. Il premier ha mantenuto questa ferma decisione, ai giornalisti che gli chiederanno in conferenza stampa sabato lumi, non darà risposte. Questo è il percorso delineato da Repubblica. Poi, terminate le domande, dichiarata chiusa la fase istituzionale della conferenza stampa, sarà egli stesso a svelare quanto ha in mente con un appello finale in cui verrà lanciata la candidatura. Racconta tra l'altro Repubblica, sempre in questo retroscena, che il freddo non sarà tanto con il PD, nonostante non gli sia piaciuto qualche uscita di D'Alema. Anzi, gli obiettivi polemici della campagna di Monti saranno altri. In primis Renato Brunetta, considerato l'ideologo della nuova fase populista di Berlusconi, e poi Nichi Vendola. Per entrambi, assicura Repubblica, Monti ha assicurato e confidato di avere in serbo alcune pillole programmaticamente al veleno, si intende. Quali siano queste pillole non è dato a sapere, e non aggiunge altro Francesco Bei su Repubblica, ma certo c'è già abbastanza in quest'articolo, che dite. E Repubblica fa anche una sorta di quella che è la galassia Monti, a pagina 4, da Marcegaglia a Passera, da Petrucci a Tinagli, le candidature pronte al decollo, con già i sondaggisti che dicono il premier vale 44 seggi in più. Lo so, magari siete annoiati da tutti questi discorsi, cioè i riposizionamenti della politica, ma i giornali raccontano soprattutto questo in questi giorni, cioè pagine di, posso dirlo, fuffa rispetto a quelli che sono i problemi concreti, il lavoro, le tasse, il lavoro che manca, le pensioni, la sanità, il welfare. È così, è un momento di campagna elettorale. Comunque, a pagina 4, ecco qual è la galassia di Monti su Repubblica: la CISL Bonanni, Olivero delle Acli che si candida, secondo Repubblica ci sono anche i montiani del PDL, Pisanu, Frattini, poi c'è gli imprenditori, da Marcegaglia, Montezemolo, i ministri Passera, Casini ovviamente, la comunità di Sant'Egidio col ministro Riccardi, Petrucci dal CONI, Fini dei FLI. Io, vedendo tutto questo, per alcuni di loro mi è venuto in mente un qualcosa che, tra l'altro twittato da giorni, sta tornando la Democrazia Cristiana. Perché l'anima cattolica è molto forte, il ministro Riccardi, come detto, Casini e tutto l'UDC, Olivero delle Acli, Dell'Ai, presidente della provincia di Trento, che ha una radice cattolica molto forte. Insomma, sta tornando la Democrazia Cristiana? E beh, il Fatto Quotidiano con Antonello Caporale a pagina 3 lo scrive proprio: il prof appende il Loden alla balena bianca. Il miracolo di un uomo trasformato da un anno di governo. Spariti i tecnici, alla sua corte arriva Lorenzo Cesa dell'UDC. Sono ormai lontani i ricordi, scrive il Fatto, in cui Monti diceva: mia mamma mi diceva sempre stai alla larga dalla politica. Ricordate, è talmente un rischio ritorno di C, ovviamente una forma nuova della Democrazia Cristiana, che scrive il Corriere della Sera, pagina 6, rispunta anche Clemente Mastella, l'ennesimo ritorno di Mastella, Monti è il nuovo Berlusconi. Torna Clemente Mastella, scrive Monica Guerzoni, col suo pesante fardello di voti campani, legislature parlamentari, discutibili trascorsi politico-giudiziari, l'ex guardasigilli, sta segretamente brigando per trovare un posticino sotto l'ala di Monti. E pare, scrive Monica Guerzoni, che abbia trattato con il leader dell'UDC, Cesa, appunto, che gli avrebbe risposto: non ci sono veti su di te. Torna anche Clemente Mastella sotto l'ala di Mario Monti. Vedremo. Marco Galluzzo, sempre sul Corriere della Sera, racconta pagina 3 che Monti è già pronto alla campagna elettorale in TV. In questa cornice appare scontato aggiungere che Monti farà campagna elettorale ovviamente anche in TV, parteciperà a talk show politici, mentre non c'è traccia dei dubbi che pure serpeggiano tra alcuni membri del governo sulla figura di un premier dimissionario che da Palazzo Chigi si ripropone al paese. Sarebbe legittimo, esporrebbe una carica dello Stato a delle obiezioni fondate, ma né al Quirinale né intorno a Monti al momento sembra che il tema si proponga come un problema. Dunque il professore già pronto per la campagna in TV, scrive il Corriere della Sera. Chi la TV non l'abbandona manco mezzo secondo è Silvio Berlusconi, invece. Ieri era ancora a Canale 5, oggi sarà a Radio Rai, poi sarà domenica all'Arena di Giletti. Però in realtà può darsi che si debba aggiornare nel frattempo nuove comparsate. Berlusconi ieri è apparso appunto in TV a Canale 5. Inutile il voto ai leaderini, bisogna dare il voto ai partiti forti. Ha detto, scrive il giornale, basta con le persecuzioni fiscali. Ha detto, e l'abbiamo sentito il nostro Barinon dalle 6.30, le donne sono meglio degli uomini, hanno quell'intuito per cui vanno premiate, per cui se io tornerò a Palazzo Chigi prometto di fare tutto per le donne, per la famiglia, e questo lo garantisco. Tutte queste apparizioni di Silvio Berlusconi alla TV non piacciono ovviamente ai leader politici opposti, non piacciono, pare, anche alla RAI, che comunque ha messo un divieto: RAI, politici vietati nelle festività, almeno nei giorni di Natale, 24, 25, 26, il 6 gennaio. Questo è stato l'ordine del consiglio di amministrazione della RAI. Ci vuole equilibrio prima della par condicio. Anche per il Fatto Quotidiano, Carlo Tecce parla di questo: pacco elettorale in RAI, a Natale niente politici. Ma sono timide, secondo il Fatto Quotidiano, le contromisure di Viale Mazzini per frenare l'invasione di Berlusconi, che imperversa appunto da Radio Anch'io Oggi a Massimo Giletti in RAI domenica. La politica, però, e questo è interessante, è un articolo anche questo da Mani sul Volante, cari ascoltatori, racconta il Fatto Quotidiano, si sta confrontando con un dilemma della legge elettorale. La legge elettorale prevede che debbano raccogliere le firme coloro che sono fuori dal Parlamento, movimenti, non so, tipo il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, oppure SEL di Nichi Vendola, Rifondazione Comunista. Mi vengono in mente alcuni dei partiti che non sono in Parlamento, non hanno gruppi parlamentari e quindi devono raccogliere le firme. Ma attenzione, perché adesso c'è in Parlamento, racconta Paola Zanca, pagina 7 del Fatto, un tentativo estremo da parte di gruppi, gruppuscoli, partitini che non erano nella legislatura, quando è iniziata la legislatura, non avevano un gruppo parlamentare, ma poi sapete che durante una legislatura ci sono politici che abbandonano i partiti. E allora si stanno formando dei gruppuscoli strani in Parlamento, per poi chiedere la deroga, come dire: eccoci qua, siamo in Parlamento, dunque dobbiamo essere esonerati per la raccolta delle firme. Firme, gli esonerati alla riscossa, tutti in trincea nel palazzo. Oggi è una giornata importante, scrive il Fatto, perché in aula il decreto che decide le regole per presentare le liste. Allora è una corsa agli stratagemmi per evitare di dover allestire i banchetti, raccogliere le firme e avere delle deroghe speciali. Filippi, inizia così l'articolo di Paola Zanca, ma chi? Quello nero, il piccoletto, sta un'altra volta qui. Agli uffici del gruppo misto di Palazzo Madama prendono la notizia del ritorno del senatore Alberto Filippi, 46 anni, di Arcugnano, entrato 4 anni fa con la Lega, ma poi espulso, è passato al misto e dal misto è entrato in Coesione Nazionale. L'altro ieri è tornato al misto annunciando la nascita della componente La Destra, cioè il partito di Francesco Storace. Giura e spergiura che il suo trasloco è frutto di un percorso serio e che non c'è nessun calcolo per tentare la carta dell'esonero dalla raccolta firme, eh? Assolutamente, perché la destra è una delle formazioni che non è in Parlamento, ma adesso è nato grazie a un senatore, la componente della destra al Senato, e presumibilmente chiederà per questo la deroga della raccolta firme. Ma così sono comparsi giovedì scorso, è tornato in Parlamento. Voi non lo sapevate, giovedì scorso magari per voi è stata una giornata normale, vi siete alzati, siete andati a lavorare, eppure sappiate che è nato il Partito dei Pensionati in Parlamento, con Giacinto Boldrini, seguito alla Camera da Lino Miserotti. Più che il partito, è la componente dei pensionati, ma non chiederanno certamente questi, per questo motivo, una deroga alla lista dei pensionati, non lo faranno, si saranno riscoperti della lista dei pensionati all'ultimo momento. Oppure è nato con Massimo Donari, che è uscito dall'Italia dei Valori, e Nello Formisano, Diritti e Libertà, ma non chiederanno sicuramente la deroga per dover presentare poi le firme, questi che hanno fatto Diritto e Libertà. E così, insomma, è nato anche con Rosi Mauro, fuoriuscita dalla Lega, Siamo Gente Comune. Ma siamo certi che anche loro non chiederanno la deroga nella raccolta firme? Assolutamente non lo faranno, non lo faranno. Oggi non lo faranno, vedrete che non lo faranno. Allora, il Sole 24 Ore oggi apre sulla situazione finanziaria, racconta una giornata di spread ai minimi, ai 295 punti, sotto la soglia dei 300, i tassi BTP sono dunque a 295 punti dai Bund tedeschi. La Grecia, ma anche il rischio di fiscal cliff in America hanno spinto i mercati europei, ma la notizia del giorno che riguarda la finanza proviene però da una sentenza che giustamente la Procura di Milano ha definito a suo modo storica, e giustamente i giornali danno rilevanza a questa sentenza. Una sentenza che ha portato alla condanna in primo grado, per carità, a quattro super banche, come le definisce il Corriere della Sera, per la vicenda dei derivati a Milano, la finanza creativa cosiddetta. Allora dovete leggere sul Sole 24 Ore, Sara Monaci e Gianni Trovati, derivati Milano, quattro banche condannate. Il Tribunale di Milano ha sanzionato Deutsche Bank, Deffa, UBS e JP Morgan. Un pollice verso nel primo round della battaglia legale per l'operazione derivati da 1,68 miliardi di euro. Parliamo di queste cifre. Sottoscritta nel 2005 da Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano, 1,68 miliardi di euro. Poi i comuni sono al dissesto. Ieri il giudice Oscar Maggi ha condannato in primo grado per truffa aggravata i quattro istituti di credito, ai quali sono stati confiscati 89,7 milioni di euro, 16,6 alla UBS e 24,4 milioni di euro, no, 24 milioni di euro a testa per le altre tre banche. È il corrispettivo dei profitti considerati illeciti prodotti dagli swap avviati nel giugno 2005, sottoposti poi a una girandola di interventi successivi. Alla confisca ci aggiunge anche una sanzione da 1 milione di euro ciascuno per la responsabilità amministrativa delle imprese. Condannati anche 9 funzionari delle banche coinvolte, tra i 6 e gli 8 mesi di reclusione, ciascuno con una mini sanzione tra i 50 e 90 mila euro. Insomma, una sentenza che il PM Robledo, Alfredo Robledo, giudica storica, perché per la prima volta si riconosce dal punto di vista penale la responsabilità delle banche per la mancata trasparenza nei rapporti con la pubblica amministrazione. Sono stati invece assolti i dirigenti, l'ex direttore generale di Palazzo Marino Carlo Porta, il consulente Mario Mauri, che erano stati accusati di complicità con le banche ai danni del Comune di Milano nel fare firmare queste clausole, questi contratti sui derivati. E comunque è una sentenza storica, infatti tutti i giornali ne parlano, derivati condannati le superbanche. Tra l'altro Repubblica racconta a pagina 16 con Ettore Livini quella che è la finanza creativa. Adesso c'è stata una sentenza che riguarda il Comune di Milano, ma dal Piemonte alla Sicilia è una bomba ad orologeria da 6 miliardi di euro, scrive Repubblica. Ettore Livini: i derivati degli enti pubblici italiani sono una bomba a orologeria innescata in ogni angolo della penisola, pronta a esplodere in qualsiasi momento, a far danni per almeno 6 miliardi. È la finanza allegra di inizio millennio che non ha risparmiato nessuno. Il tesoro a inizio anno ha chiuso la chetichella con un assegno da 2,6 miliardi, uno sfortunatissimo swap sottoscritto nel 94 con Morgan Stanley. E verrebbe da chiedere, tra parentesi, le responsabilità di chi ha firmato queste cose, al di là delle sentenze di finanza creativa, mandando poi al dissesto. In questo caso avete sentito il tesoro, che ha dovuto chiudere con un assegno di 2,6 miliardi, uno sfortunatissimo swap con Morgan Stanley. Indovinate poi alla fine a chi dovranno andare a chiedere questi buchi, questi soldi per riparare i buchi fatti, 2,6 miliardi. Ma ancora, scrive Livini, tutto lo stivale paese, dal Piemonte alla Puglia, da Firenze a Orvieto, da Copparo in provincia di Ferrara a Chiaramonte Gulfi in Sicilia, decine di amministratori locali reinventatisi Warren Buffett hanno firmato tra il 2000 e il 2008, cioè fino al crack della Lehman, complicatissimi derivati, convinti di risparmiare sugli interessi del debito, e i loro elettori e i cittadini sono oggi costretti a pagare il pedaggio salatissimo della loro disinvoltura. Le responsabilità di tutto questo, ripeto, dove sono? Dove sono? In capo a chi? A chi ha firmato quei swap? A chi si è fatto fottere da questi swap? Sta di fatto che quello che sappiamo di certo è in capo a chi vanno le fregature a catena di comuni e istituzioni che magari ora rischiano il dissesto per questo. In capo a voi, ovviamente, in capo a me, in capo a noi. Questo è certo. Avremo il ministro della salute, Renato Balduzzi, alle 8:15. Su tutti i giornali c'è la polemica per le 1000 nuove sale da poker che potrebbero nascere a gennaio. Il ministro Balduzzi ha detto: sono sconcertato. Lui che sta facendo una campagna per cercare di limitare questo diffondere del gioco d'azzardo legalizzato. Cercheremo di capire se davvero c'è questo allarme e ne parleremo. Voglio raccontare anche in conclusione una storia che racconta Libero con Alessandro Gonzato a pagina 18. Anche questi dissesti da Equitalia o burocrazia impazzita da Equitalia, accusato di evasione ma è falso. Equitalia dice deve pagare lo stesso. Il fisco ammette l'errore, però intanto pignora 18.000 euro a un ex primario che ora chiede il risarcimento danni patrimoniali d'immagine. Succede all'ex primario Giovanni Mazzoleni, ex primario di chirurgia maxillofacciale a Treviso, medico conosciuto in tutto il mondo, primo ad aver eseguito un trapianto dell'articolazione della mandibola e della base cranica. A far finire l'ex chirurgo nelle fauci di Equitalia una presunta evasione fiscale di 12.000 euro, ma una volta ricevuta la comunicazione il dottore, dopo essersi consultato col commercialista, decide di non versare la somma. E per contestare questa richiesta di pagamento si rivolge alla commissione tributaria provinciale. E la commissione tributaria gli dà ragione. Dice: è vero, l'evasione non c'è, ha tutto provato, è assolutamente falsa questa evasione fiscale. Una sentenza confermata 2 anni dopo anche dalla commissione tributaria regionale. Inevitabile allora a quel punto che il legale dell'ex chirurgo chieda a Equitalia l'annullamento del debito. Niente da fare. E qui parte la burocrazia. Per 4 anni l'ente che riscuote per conto dello Stato fa spallucce, se ne frega di chiedere scusa alla vittima e di porre fine dunque a un calvario giudiziario, ma c'è di più, perché gli pignora anche lo stipendio e poi parte della pensione. Ecco, pazzie burocratiche, ma la burocrazia a Treviso, racconta Libero, accusato di evasione ma è falso, Equitalia deve pagare lo stesso. Ma queste notizie finiscono a pagina 18 e invece la fuffa dei riposizionamenti delle stesse persone nella politica impera sui giornali e impererà in tutta la campagna elettorale. Ben ritrovati da Alessandro Milan, siamo qui alle 8:16, allora con noi, e lo voglio salutare subito, c'è il ministro della salute Renato Balduzzi. Ministro, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Senta, lei ha parlato di sconcerto, si è detto sconcertato per sul tema del gioco d'azzardo legalizzato, perché ci sarebbe un assalto, diciamo così, alla diligenza, come si suol dire, alla legge di stabilità, per inserire la possibilità di aprire 1000 nuove sale da gioco. Però c'è un giallo un po' su questo, c'è ed è confermata questa possibilità oppure verrà rinviata? Il giallo è ancora, diciamo, da sciogliere, perché le ultime fasi di una legge di stabilità, come un tempo per la legge finanziaria, sono sempre fasi concitate. Quindi ecco, io ho sollevato l'attenzione relativamente ad alcuni emendamenti presentati e in parte risultavano votati, ma appunto è da verificare cosa è successo proprio nelle ultimissime ore, che sembravano andare in controtendenza rispetto all'approccio che il governo aveva condiviso per quanto riguarda il decreto salute e sviluppo con riferimento al gioco d'azzardo patologico, sia per quanto attiene alla attenzione con cui seguire un fenomeno che sta purtroppo prendendo sempre più piede dal punto di vista anche sanitario oltre che sociale, e sia per quanto riguarda le cautele nei confronti della pubblicità, nei confronti in particolar modo dei minori. Ma secondo lei c'è una lobby, come si suol dire, in Parlamento che spinge invece in maniera contraria rispetto a quella che è la sua idea? Ma non lo so, ecco, le lobby di solito sono fuori dal Parlamento, ecco, sono appunto le categorie che rappresentano ai parlamentari le esigenze di questa o di quella categoria. Quello che mi sono limitato a dire è che mi sembra che nel momento in cui il governo e il Parlamento, perché in sede di conversione in legge del decreto legge salute e sviluppo ci fu una forte coinvolgimento alla Camera proprio dei parlamentari che migliorarono e precisarono alcune delle disposizioni che avevamo inserito nel testo iniziale del decreto legge. Nel momento in cui c'è questa situazione, ecco, dare a fine legislatura un segnale di tipo diverso sembrava davvero qualche cosa di preoccupante. Ecco, ma poi vedremo come andrà a finire. Ma lei auspica che queste nuove 1000 sale da poker a gennaio non aprano? Ma io faccio questo ragionamento: il nostro ordinamento si è con coraggio dedicato quest'anno a una analisi su che cosa sono le conseguenze, ripeto, non particolarmente sanitarie, perché si è capito che c'è una vera e propria nuova patologia, chiamata con quel termine, diciamo, giornalisticamente ad effetto, che è ludopatia, e poi ci sono conseguenze sociali gravissime del gioco d'azzardo patologico, che riguardano molte persone, molte famiglie. A suo tempo il nostro ordinamento, come altri, aveva operato per una legalizzazione parziale del gioco d'azzardo, proprio per evitare che questo potesse diventare il terreno caccia di una parte della malavita organizzata, e con il desiderio di tenere sotto controllo, a cui evidentemente si agganciava come deterrenza anche delle entrate derivanti da queste attività. Ci siamo accorti che probabilmente c'è tutto un lavoro di attenzione, di prevenzione, oltre che di regolamentazione più stringente. Questo sarà il compito delle relazioni tra agenzia dei monopoli e sindaci e comunità locali interessate, proprio per impedire che la proliferazione di questi punti gioco costituisca un'occasione, un incentivo per evidenziare ancora di più un grave problema sociale. Quindi noi abbiamo aperto una finestra di attenzione e su questo problema. Ma si auspica che segnale, ci sia un rimando, ecco, credo che il segnale debba essere univoco, ecco, questo almeno è il ragionamento che mi permetto di fare. Senta, parliamo di sanità, perché le regioni lamentano dei tagli più cospicui di quelli che invece lei in conferenza stampa ieri ha detto, cioè un taglio nel triennio 2012-14 di 13,8 miliardi, un definanziamento, diciamo così, o si può dire anche taglio. Le regioni invece parlano di 30 miliardi e il sistema sanitario che non regge con questi tagli. Secondo lei invece il sistema sanitario nazionale regge, può reggere ancora i conti? Sì, io ho rappresentato i numeri e le ragioni che consentono oggi considerare il nostro sistema sanitario sostenibile oggi, a condizione naturalmente che gli strumenti che il governo, d'intesa con le regioni, ha definito, ha adottato per riuscire a limitare e a vincere la battaglia contro la disorganizzazione, lo spreco, l'inefficienza, che in un sistema complesso, articolato come quello sanitario, è una battaglia importante, perché ogni giorno le cronache ci dicono che viene a emergere qualche fenomeno anche in regioni cosiddette virtuose, che certamente ha anche un risvolto di tipo economico-finanziario, cioè di dietro all'inefficienza, alla disorganizzazione, qualche volta all'illegalità, ci sono anche risorse sottratte al Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, riuscire a mettere più ordine in casa propria, a tutti i livelli, e utilizzando gli strumenti che ci siamo dati e che ci stiamo dando, consente evidentemente di rendere sostenibile un sistema importante come quello sanitario, che destina risorse importanti, perché stiamo parlando comunque di oltre 106 miliardi di lire, miliardi di euro annualmente destinate alla sanità. Quindi è una fetta importante del prodotto interno lordo, delle risorse di un paese, anche se si può dimostrare che il nostro Servizio Sanitario Nazionale in questi anni ha già dato prova di una certa virtuosità, perché è riuscito a tenere sotto controllo una spesa per sua natura destinata a crescere. Ecco, quello che noi in questo momento difficile cerchiamo di fare è di riuscire a resistere, è una sfida importante, non è una passeggiata quello che si chiede alle regioni, alle aziende sanitarie, ai professionisti della sanità, io sono consapevole, credo che tutti ne siamo consapevoli, però ecco, il quadro complessivo è un quadro, a mio parere, ancora di sostenibilità. Il 2013 potrà portare degli ulteriori problemi che naturalmente saranno affrontati tempo per tempo, ma credo l'importante è in un quadro di condivisione. Cioè, io ho sottolineato molto anche ieri nella conferenza stampa questa necessità di una forte condivisione tra momento nazionale, momento regionale, tra governo e regioni per quanto riguarda la sanità, perché così è disegnato nel nostro ordinamento e il presupposto di tutto è proprio riuscire a condividere obiettivi e strumenti. Comunque l'importante è che una sostenibilità c'è se si riducono anche gli sprechi, che notevoli ci sono ancora. Senta, le devo chiedere questo, ministro Balduzzi, e ieri avevo anche il ministro Paola Severino, e tutti ci si interroga adesso su anche il futuro immediato dei ministri di questo governo. Il ministro Severino ha detto: io ho finita questa esperienza, tornerò al mio lavoro. Lei cosa fa? Da ministro tecnico ipotizza anche di poter continuare un'esperienza politica? Ma allo stato, proprio in questi giorni, in queste settimane, io sono ancora molto, diciamo, impegnato su fronti proprio di materia specifica. Beh, però un pensiero, ecco, l'avrà, quindi, fatto, un pensiero l'avrà fatto. Sicuramente, sì. Ecco, mi arrivano segnali di attenzione, qualche riflessione, o come credo tutti i ministri, insomma, sia sul mio territorio sia in generale girando nel paese, degli inviti, degli stimoli, delle richieste da parte di molte persone a non lasciare, ecco, a continuare questo impegno. Sono stimoli che avranno vedremo su questo. Non mi dica che non sa niente anche lei di Monti, invece, perché perché la domanda su Monti, come sa, tutti i giornalisti vogliono sapere che farà Mario Monti. Oddio, sì, leggendo i giornali ormai sembra che il dado sia tratto, ecco. Ma credo che le persone a cui questa domanda certamente può essere rivolta, ma che per ovvie ragioni, ecco, hanno qualche motivo in più per non dare una risposta compiuta, siano proprio i ministri, proprio in forza della collegialità, della solidarietà che in questi mesi si è sviluppata attorno al Presidente del Consiglio. Sarà il Presidente del Consiglio, questo nel sì, momento in cui lo riterrà opportuno, a sciogliere questo nodo. Beh, che indubbiamente... è possibile che nel Consiglio dei Ministri nessuno gli dica: professore, si azzardi a chiedere: professore, ma allora cosa pensa di fare? No, nessuno, non si parla assolutamente. Beh, ma lei sa che una delle regole che ci siamo dati fin dall'inizio, e che credo tutti abbiano rispettato, è quello che, ecco, ciò di cui parliamo in Consiglio dei Ministri comunicato con i documenti, con gli atti, con le cose, però ecco, questo, diciamo, pettegolezzo da Consiglio dei Ministri, ci siamo sempre detti che forse non era il caso, ecco, di incentivarlo. Comunque lo so che questo fa venire meno una ragione di interesse, ecco. Ma però, no, adesso diventa un interesse capire se proprio il Premier Mario Monti voglia decidere di continuare in qualche modo l'avventura politica. Comunque è un interesse, credo, anche per molti italiani. Assolutamente sì, assolutamente sì. Però credo che appunto il momento e il luogo dove questa, diciamo, comunicazione, che nel quadro della trasparenza che ha sempre caratterizzato il governo e questo Presidente del Consiglio in particolare, sarà certamente egli stesso a valutare. Questo certo. Senta, ministro, per concludere devo chiedere questo: noi qualche giorno fa abbiamo ospitato una nota transessuale in Italia che sta facendo una campagna per dire: voglio pagare le tasse e legalizziamo la prostituzione e facciamone un lavoro, siccome questo ha anche dei riflessi sanitari. La sua posizione è qual è? Cioè, è possibile ipotizzare una legalizzazione della prostituzione anche ai fini di una tassazione di questo lavoro, diciamo? Questo non è un tema, diciamo, nato oggi, ecco, un tema antico su cui si discute da molto tempo, non soltanto nel nostro ordinamento. Ecco, mi sembra che sia l'esperienza del passato, sia quella di altri ordinamenti, non vadano nella direzione, tutto sommato, di un vantaggio ad andare a perseguire questo tipo di soluzioni. Ecco, c'è davvero. Beh, un vantaggio fiscale, invece, un vantaggio fiscale ci sarebbe banalmente, cioè se un lavoro invece di fare tutto però, a nero. Però diciamo che in questi casi, no, c'è sempre da valutare nel bilanciamento delle diverse situazioni, dei vantaggi e degli svantaggi, c'è da valutare quali sarebbero, ecco, gli svantaggi. Non vorrei che, ecco, adesso già ci sono le polemiche sul cosiddetto, ripeto, cosiddetto Stato biscazziere, non vorrei che si aprissero le polemiche sullo Stato e poi con qualche altro aggettivo. Ecco, credo, diciamo, che lo dico io, puttaniere, lo dico. Il problema della sessualità, dell'affettività, il problema è debba essere risolto in una nazione evoluta, civile, attraverso altre diciamo altre strade. Però, ecco, ripeto, è una valutazione che lei mi chiede al volo, così sì, le do sì. Questa valutazione che mi sembra essere il frutto anche di una analisi che in questi anni è stata svolta e su cui anche il Ministero della Salute ha, diciamo, documentazioni, elementi che vanno tutte nella direzione di un'estrema perplessità e di una grande cautela su queste cose. Credo che si tratterebbe semmai di più di promuovere proprio una sessualità responsabile, di promuovere comportamenti anche maggiormente attenti alla dignità delle persone, delle donne in particolare. Va bene, la Ministro la ringrazio, intanto in attesa di capire anche il suo vedremo, come se si concretizzerà per un eventuale impegno politico. Grazie per essere con noi, Renato Balduzzi, il Ministro alla Salute. Ci fermiamo per 5 minuti e poi avremo ospite Cesare Marini, è un deputato del Partito Democratico che ha già fatto 3 legislature ma ha chiesto la deroga. Non è Franco Marini, magari il più famoso omonimo ex presidente del Senato. Cesare Marini, Partito Democratico, ha chiesto la deroga e l'ha ottenuta, uno dei 10 elefanti della politica, così definito dai giornali, che ha ottenuto appunto una deroga. Con noi ci sarà anche Giulia Innocenzi di Servizio Pubblico. Insomma, la politica che cambia, non cambia, cambia, non cambia. 24 mattino. Eccoci qua, sono le 8:35 minuti. Allora vogliamo parlare di questa politica che si rinnova, non si rinnova, chi lo sa, anche con il vostro contributo 800240024. C'è un paradosso e stiamo assistendo anche a un paradosso, che il partito che ha detto faremo le primarie anche per scegliere molti parlamentari, vale a dire il Partito Democratico, in questi giorni è, e quindi un partito che comunque ha aperto in questo senso alle primarie, è il partito che paradossalmente viene anche criticato o più criticato per una scelta, quella di fare alcune deroghe. Sapete che lo statuto del Partito Democratico prevede che chi ha fatto 3 legislature dovrebbe, insomma, farsi da parte, ma c'è la possibilità di chiedere deroghe, e allora 10 esponenti del PD hanno chiesto questa deroga è stata concessa. Uno di questi è l'onorevole Cesare Marini, che saluto. Buongiorno onorevole. Buongiorno, del Partito buongiorno. Democratico, classe 1938, quindi mi aiuti con i calcoli, che a quest'ora quanti anni ha? 74 anni. Le presento e saluto anche Giulia Innocenzi di Servizio Pubblico. Buongiorno Giulia. Buongiorno, eccoci a voi qua. Allora, onorevole Marini, lei ha chiesto la deroga, sì, al Partito Democratico. Prevede lo statuto. Come prevede lo statuto, certo. E perché lo ha fatto? Perché sa che molti colleghi, Livia Turco, Follini, altri, hanno detto no, noi la deroga non la chiediamo. Perché lei invece, sì, lei l'ha chiesta? Innanzitutto l'ho chiesta perché, come dire, io amo la politica, mi piace molto questa attività, l'ho sempre fatta per tutta la vita e ho difficoltà a distaccarmi. Ah, è vero che, lei ha detto io senza politica muoio? No, non ho detto così, poi c'è sempre un'esagerazione, i giornalisti sono molto bravi nel rendere sentimenti che molte volte noi non politici non riusciamo a esternare bene. L'arte della scrittura. E della parola. Dunque, intanto bisogna un po' ridimensionare quello che è avvenuto, perché il PD ha eletto alle elezioni precedenti circa 300 fra deputati e senatori. 300, che ci siano 20 che abbiano, siano in corso in quello che è una previsione statutaria, mi sembra che è una quantità del tutto insignificante. Beh, ma lei appunto a maggior ragione non si sente a maggior ragione un po' uno che ha fatto un qualcosa di poco conveniente, poco popolare, ecco, in questi tempi. Né poco popolare né poco conveniente, lo sa perché? Perché? Intanto io non è che divento un candidato da inserire nella lista bloccata, sì, no? Io mi presento alle primarie, farà le primarie. Mi sottopongo al giudizio dei cittadini. I cittadini possono ritenere che è giusto che io sparisca e io questo lo metto nel conto, lo accetto perché ho sempre accettato il giudizio dell'elettore. E quindi fa parte di quella che è il modo attraverso il quale si esprime la vita politica. Senta, italiana. Però onorevole Marini, non dà la sensazione di volersi proprio non disincollare o disincrostare da quella poltrona? Lei dice io faccio... l'ha detto lei però, io faccio fatica a pensare... Ad allontanarmi dalla politica. Ad allontanarmi dalla politica. E siccome oggi la politica purtroppo si fa negli enti elettivi, si fa... nelle aree nelle quali è possibile lavorare, lei deve mettere anche nel conto un'altra circostanza, sì. Che cioè la presenza dei partiti, che una volta era importante, e molti dirigenti, nel caso mio, aveva lavorato sempre nel partito, era stato un dirigente di partito, sono stato lungamente un dirigente di partito, e oggi non ci sono più queste opportunità. Quindi l'unica è rimanere in Parlamento a vita. No, lo ha a vita, perché fin tanto che gli elettori danno la fiducia. Per carità, sì. Lei non deve mai trascurare questo dato. Che lei si sottopone alle primarie. Però mi lasci sentire anche il parere di Giulia Innocenzi. Allora Giulia, che vedi di quello che sta succedendo nel mondo della politica, al tuo osservatorio? C'è questo rinnovamento, parola che viene spesso utilizzata, oppure sono le stesse facce che si stanno riciclando in qualche modo? Avevano descritto queste elezioni del 2013, ricordi, sarebbero state epocali, no? Rivoluzionarie, c'era addirittura chi diceva che sarebbero state le elezioni più importanti dal dopoguerra, poi purtroppo ci svegliamo un giorno, siamo a pochissimi mesi dalle elezioni e scopriamo che il candidato per il PD è Bersani, che diciamo non è di certo un novello della politica, dall'altra parte addirittura si ripresenta Berlusconi. E poi gli altri due possibili candidati potrebbero essere Monti, che ormai è quasi sicuro, e qualcuno per Grillo. Io ho fatto un veloce calcolo, l'età media, inserendo Grillo che non sarà mai il candidato, però ancora aspettiamo di sapere chi sarà per lui, l'età media di queste quattro persone è 68,5 anni, che poi sotto, sono anche sotto l'età di Cesare Marini, sei leggermente più giovane di Cesare Marini. Però io vorrei fare i complimenti all'onorevole Marini, perché chi ha voglia di spendersi per la cosa pubblica, chi ha il sacro fuoco della cosa pubblica, merita tutto il rispetto. Però proprio per questo, proprio perché l'onorevole Marini, che appunto fa politica, girerà per l'Italia, sa benissimo qual è una delle più importanti emergenze di questo paese, che sono i giovani, a partire dalla disoccupazione giovanile, che ormai è arrivata al 36,5%, è un dato che continua a crescere, dall'anno scorso più 5%, è una cosa veramente un'emergenza incredibile. Forse dovrebbe essere lui stesso, no? A dire, è vero, questa è un'emergenza, perché allora non sono io il primo a lasciare un posto a un giovane. Onorevole Marini, che fa lei per i giovani? I giovani, dice Giulia Innocenzi, le chiede. Ma le dico subito. Intanto bisogna sempre, arrivare al centro del problema. Un grosso rinnovamento nel Parlamento è avvenuto nel 2006. Difatti, di parlamentare della Prima Repubblica ci è rimasto solo qualcheduno. Questa dimostrazione che... No, io non ero parlamentare della Prima Repubblica, quindi... Ho capito, però lei parla di rinnovamento, però lei, Giulia Innocenzi le chiede, lei, perché, esatto, lei, perché adesso, lei adesso non subito, lascia, per esempio, un giovane? Le dico subito, intanto il 36% di disoccupazione giovanile, che è un dato spaventoso, non è che si può risolvere dando lo sfogo occupazionale del Parlamento, perché il Parlamento è una cosa molto ridotta. Oltretutto, il Parlamento, come tutti i momenti di governo della società italiana, richiede anche conoscenza dei problemi e richiede anche esperienza, altrimenti i problemi difficilmente si risolvono. Lei sa, e credo che lo accoglio ogni giorno, sì, sì, che all'interno di quella che è la grande area che, come dire, si è rimboccate le maniche per far fronte al precipitare della crisi, e ci sono due visioni diverse, perché c'è una visione interpretata dal Premier con coerenza, che è la visione liberale, e cioè... Ho capito, onorevole Marini, però qui stiamo un po'... No, ma stiamo un po' di... Non so, Giulia sta rispondendo... Cioè, sta... il problema dei giovani... No, ma il problema, problema dei giovani, che Giulia Innocenzi le ha posto, le ha detto perché lei non può dare già l'esempio a dire facciamo il rinnovamento della politica, largo ai giovani, alla nuova classe dirigente... Ma non si risolve il problema occupazionale... Ma no, ma occupazionale... Dando spazio al Parlamento, guardi che se no arriviamo... Sì, però mettendola al contrario, si può dire... largo ai giovani, però io sto qui, tanto non tocchino il mio scranno. Questa questione che pone lei, legittima, giusta dal suo punto di vista, deve essere, come dire, deve progredire il suo discorso sulla base della sua impostazione, o deve essere l'elettore a decidere? No, ma perché è l'elettore? Giulia, deve decidere l'elettore. Il problema che ci sono nel paese. Aspetti un attimo, onorevole Marini. Giornalisti o i cittadini? No, perché decidiamo io e Giulia Innocenzi. Deciso. No, Giulia, qua l'onorevole Marini dice, insomma, lui si sottopone al vaglio delle primarie, quindi l'elettore, quindi va bene così per noi. Come Marini spesso ci insegna, in politica quando si occupa da tanti anni un posto si crea una specie di potentato locale, di legittimazione, di reputazione, per cui sarà difficile che quello stesso politico, Marini avrà lavorato benissimo, verrà mandato a casa. Quindi in bocca al lupo a Marini per le primarie, molto probabilmente Marini passerà queste primarie e sarà candidato. Però Marini, non mi prenda per ingenua, io non dico che lei deve lasciare il posto in Parlamento perché così cerchiamo di diminuire la disoccupazione giovanile mettendo al suo posto un giovane. Io dico che l'emergenza giovani dalla classe dirigente di oggi è stata un'emergenza fallita, perché oltre alla disoccupazione giovanile che le ho citato prima, in Italia c'è un sistema di corporazioni per cui chi sta dentro si protegge, chi sta fuori non riesce a entrare. Non mi sembra che il Parlamento abbia scalfito questo sistema, anzi al massimo un Parlamento composto da avvocati, notai, medici non ha fatto altro che implementare questo sistema. I giovani, quelli occupati, sono occupati con contratti precari che non mi sembra siano stati un'emergenza vostra, perché il precariato continua ad aumentare, abbiamo più di 4 milioni di lavoratori che lo sono. Eccoci con Giulia Innocenzi, che abbiamo recuperato, e Cesare Marini. Onorevole, dica la verità, lei quanto lei non vuole staccarsi anche dello stipendio da parlamentare, detto che poi appunto deve sottoporsi alle primarie, ma è anche un po' questo. Ma lei ha maturato già il vitalizio? Sì, l'età per il vitalizio. Certo. Com'è? Quanto ammonta il vitalizio una volta non, che... Non l'ho mai chiesto il calcolo, credo grosso modo dell'indennità che percepisco, credo, ma non ne sono sicuro. Cioè più o meno, me lo faccia capire. Non ho idea, perché non l'ho mai chiesto. No, non l'ha mai chiesto, ma si sarà fatto un'idea. Quante legislature ha fatto? Ne ho fatte tre. Tre, quindi sarà sui 3-4 mila euro, forse anche di più, 6-7 mila. Intorno ai 4 mila, credo. Però, ripeto, potrebbe vivere benissimo di quello, cioè non è una questione... Ma io non ho questo problema, quindi non ne svii il discorso centrale, perché introduce una... C'è questa passione per la politica. No, io volevo, no, però lei mi deve consentire una cosa. Sì. La... sua collega ha introdotto il problema dei giovani e io ho il dovere di rispondere su questo. Sì, perché sennò sembra, sì, però sia conciso, cioè, perché sennò... Certo, sarò conciso, però lei non mi può sottoporre, dica. Come dire, ad un processo, oh, non ma consentendomi processo? Di difendermi, sennò sarebbe... No, non ho toghe qua da vestire. Vabbè, non è lei gentilizio, perché da, però poi quelle che conto sono... Vabbè, dica sui giovani. Le dico subito. Lei sa che ci sono due correnti di pensiero all'interno, non solo del Parlamento, ma all'interno della società, rispetto al modo come affrontare questi nodi gravi della crisi. Tra questi, il primo è quello della disoccupazione giovanile e del precariato. Sì. Io ritengo, così come con me tanti altri per la verità, che quando la società ha questi nodi da dover sciogliere, non può pensare come problema principale al debito, anzi deve stimolare la crescita attraverso l'immissione di, come dire, di prodotto finanziario sul mercato e nella società, proprio per stimolare la crescita che crea posti di lavoro. La cosiddetta teoria keynesiana. Su questo si sa che c'è una diversa opinione. Capito, questa è una teoria economica, ma lei cosa ha fatto nella sua carriera parlamentare per i giovani, per favorire questo? Che fatto? Ho fatto la parte che spettava ad uno che ha creduto in una teoria, cioè quella di ritenere che ogni qualvolta è stata fatta una legge di natura finanziaria ed economica non fosse preminente il problema di contenere solo i costi, perché i costi certo vanno tagliati, gli sprechi, le spese inutili, però bisogna stimolare l'economia immettendo, come dire, risorse finanziarie per il giovane, nel mercato. Per il giovane. Nel mercato per favorire i posti di lavoro. Se il giovane non trova lavoro, bisogna attivare il sistema delle imprese, quindi attivare l'attività. Ma mi scusi, onorevole Marini, però sono slogan giusti e belli, però rimangono un po' degli slogan. No, uno può dire ho fatto questo. La teoria liberale che dice no, in questo momento diventa preeminente. Sì, ma sono appunto teorie, cioè poi il politico deve dire ho fatto una legge, ho fatto una proposta di legge che si applica. No, le proposte non sono una presa in giro, perché poi le proposte non vanno avanti. No, ma ho capito, le teorie valgono ma rimangono sui libri, le proposte di legge sono le cose che si concretizzano. Le dico subito il motivo per il quale mi sono espresso in questi termini. E quando viene fatta una proposta di legge non è che viene subito esaminata, perché dipende dalla fase politica che si vive. Noi in tutta la legislatura, vivendo una fase di estrema emergenza, siamo andati avanti con decreti legge. Infatti questa dimostrazione, ma mi faccia ricoinvolgere Giulia Innocenzi, che il parlamentare poi è un posto dove... Quanto conta ancora essere parlamentari, secondo te, Giulia? Se si decide poco, D'Alema ha detto che preferirà fare politica fuori dal Parlamento e che non c'è bisogno di quel posto per continuare a fare politica, quindi magari anche questo potrebbe essere un punto di riflessione. Però allora, visto che tanto prima è caduta la linea, quando stavo elencando un po' di fallimenti rispetto alla soluzione di questo problema dei giovani, cerchiamo di andare un po' sul concreto con Marini. Allora, mi scrivono tanti ragazzi e l'ultima in ordine di tempo è Annabella, che è una studentessa laureata a 110 lode alla triennale, che quindi è risultata idonea per prendere la borsa di studio alla specialistica. Poi purtroppo i soldi della Regione Lazio sono finiti, immaginiamo anche il perché, e Annabella, che ha un reddito familiare inferiore ai 10.000 euro, purtroppo è costretta a lavorare in nero perché non è riuscita a trovare un altro tipo di lavoro, e lei dice io forse sarò costretta ad abbandonare i miei sogni oppure andarmene via dal mio paese, perché io ritengo che questa classe dirigente abbia fallito, non è assolutamente interessata a farmi realizzare i miei sogni, i miei desideri, le mie aspirazioni, e quindi ritengo che questa classe dirigente debba pagare come si paga, si lascia la poltrona. Io chiedo a Marini cosa si sente di dire a una studentessa come Annabella. Onorevole Marini, che risponderebbe subito Annabella? Io penso che la società italiana abbia bisogno ancora di una profonda riforma per introdurre una maggiore moralità nella vita pubblica, perché la Regione Lazio, caso specifico della dottoressa che lei ha appunto citato, ha avuto sprechi spaventosi, ruberie spaventose. Questo è non solo moralmente deprecabile, ma sarebbe necessario una maggiore risposta in termini repressivi da parte dello Stato. Sì, però sarebbe... ho capito, ma però Annabella... Il punto qual è? La risposta da dare ai giovani come Annabella, e ce ne sono molti in Italia, purtroppo ce ne sono molti, è quella appunto di capovolgere quella che è la situazione attuale dell'Italia, nel senso che erano giusti Italia, erano giuste la severità in quello che era la spesa pubblica, però a questo punto bisogna invertire il modo di agire da parte del governo, e cioè bisogna, ripeto, introdurre politiche keynesiane e stimolare molto le politiche keynesiane. Giulia, risponde ad Annabella che la linea è questa, delle politiche keynesiane. Non so quanto sarà confutata da questo pensiero, però mi viene in mente, proprio mentre noi parliamo, c'è Marco Pannella sul letto del suo ospedale che ha messo il proprio corpo nella battaglia politica. Lui vorrebbe, cioè tutti noi lo dovremmo volere, carceri degne di questo paese, e lui ha deciso di fare uno sciopero durissimo della fame e della sete per raggiungere questo obiettivo. Lui ha deciso di mettere in gioco il suo corpo, che è una concezione politica, visto che a Marini piacciono le definizioni gandhiana, potremmo dire, no? Allora, Marini, lei non pensa che anche questo sia importante in politica, cioè essere noi stessi simbolo di quello che crediamo e di quello che vorremmo raggiungere nella società, visto che lei mi sembra abbia a cuore il problema dei giovani? Non pensa che sarebbe molto più forte dire... me ne vado, me ne va, dire, me ne vado, Marini, però 10 secondi, dire questo simbolo, me ne vado, onorevole Marini, no. No, no, lei sbaglia, sbaglia di grosso, perché il problema, se si risolvesse il problema dei giovani attraverso l'allontanamento dalla politica di Marini, era pelle che fate, ci voleva niente. Il problema non è così, non è così, lei non può ingannare i giovani. Vabbè, mi devo fermare, grazie onorevole Cesare Manini. Giulia Innocenzi, sta arrivando Berlusconi a servizio pubblico, preparati, è già pronta la domanda? Per Berlusconi? Prepariamo. Va bene, preparatevi. Intanto vi ringrazio. Ci seguite su Twitter. Seguite anche Besca Peter. È l'alpino, è a 699 follower. Per favore fate qualcosa. Deve arrivare a 700 subito. A domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.